Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Sì, certo, siamo d'accordo, no? Non preoccuparti, non preoccuparti. Ti diciamo tutto. No, adesso glielo dico io agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, glielo devo dire io, no? Ma se glielo dici tu, non capiscono, dai. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Stai qui, stai qui. Dunque, cari ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a Möbius. Sono qui in studio con il nostro robottino di redazione omonimo. Succede questo, che alla Willow Garage, un'azienda che lavora nel campo della robotica a Palo Alto, in California, stanno sviluppando un progetto molto singolare. L'idea nasce da un problema molto semplice da descrivere e molto difficile invece da risolvere. Come saprete, ci sono ormai in giro dei robot che hanno raggiunto una capacità abbastanza elevata di interagire con la realtà circostante. Esatto, appunto. E quando si progettano questi robot è diventato importante fare in modo che imparino a muoversi in un dato ambiente, imparino da soli, tipicamente seguendo un sistema di prova e riprova, allungano una mano per prendere qualcosa, vanno troppo corti, non afferrano niente, allora registrano l'errore, riprovano, magari vanno lunghi, e la terza volta, usando un'espressione che la robotica ha tratto dal lessico politico italiano, ci azzeccano. Ma si potrebbe pensare che un robot in azione in un contesto dove può entrare in contatto con degli umani possa avere un sistema di relazione che fa delle domande e analizza le risposte, ovviamente. Sì, è possibile. I ricercatori dell'azienda californiana stanno sperimentando un robot che, quando osserva qualcosa, un oggetto per esempio, che non riconosce, scatta una foto e la manda a dei tutor. Questi gliela rimandano con una didascalia in codice digitale e lui la confronta con un suo database e capisce di che si tratta. Ecco. Come? Sì, dietro il vetro, sì, in regia. Quella di destra è Chiara Albicocco e a sinistra c'è Peter Bescapè. No, scusa, a destra c'è Chiara. Come fa a essere la persona di sinistra? Peter è un maschio, no? A sinistra. Come? No, non può essere Chiara. Vabbè, dai, ne parliamo dopo. I titoli di questa trasmissione e poi incominciamo. C'è un serpente che mangia le lumache, ma solo quelle col guscio che gira a sinistra. Autunno da prima pagina al CERN di Ginevra con il plasma del Big Bang. E vi raccontiamo anche come il centro sia un modello per le risorse umane. 1938, il regime pubblica il Manifesto della razza. Storie di scienziate ebree che ci raccontano di tragedie e di difficili conquiste. Ottobre e novembre, mesi di Festival della Scienza. Si parte da Bergamo e si arriva al grande appuntamento europeo di Genova. Ma cosa significa oggi organizzare un evento di questa portata? Fa sempre piacere quando qualcosa della ricerca italiana finisce sulle pagine di Nature, che è indubbiamente una rivista che è paradigma di riferimento per la migliore scienza a livello mondiale. Non è che avviene raramente, questo dobbiamo dirlo, e questa volta tocca al Politecnico di Milano, anche con Bologna e però anche con altre università internazionali. Io ho in linea Dario Polli. Buonasera Polli. Buonasera, buonasera a tutti. Del Politecnico di Milano, siete su Nature, uscito giovedì scorso, per che cosa? Mi pare che ha a che vedere con la visione, no? Sì, esatto. Siamo stati in grado di visualizzare, utilizzando dei laser particolari, la reazione chimica che sta alla base della visione umana. Nel nostro occhio c'è una molecola che si chiama rodopsina, che è responsabile della visione. Sì. Noi abbiamo studiato con questi laser e utilizzando dei calcolatori molto potenti in collaborazione con l'Università di Bologna, siamo stati in grado di vedere come questa molecola è capace di assorbire la luce e quindi lanciare il segnale verso il cervello per la visione umana. Quindi avete fatto, avete fatto uno di quei processi in cui si usa una simulazione via computer del comportamento, in questo caso di una di una sostanza chimica? Non solo, è il frutto di una collaborazione di un sforzo sperimentale e uno sforzo invece di simulazione al calcolatore. Ah. La parte sperimentale è stata svolta nei laboratori di ricerca del Politecnico di Milano, dove abbiamo dei laser che illuminano questa sostanza, sì, e riescono a farne un filmato in tempo reale di questa reazione che è velocissima. Pensi che si conclude questa reazione chimica in meno di un milionesimo di miliardesimo di secondo, è uno degli eventi più brevi mai misurati dall'uomo. Un nulla veramente, più breve, mille volte, un milione di volte più breve di un singolo click di un computer super moderno di oggi. E questo è stato fatto grazie a questi flash di luce laser, come il flash di una macchina fotografica che immortala un evento rapidissimo. Noi abbiamo questi flash di luce laser che fermano, congelano il movimento rapidissimo di questa molecola, e quindi fotogramma dopo fotogramma abbiamo seguito il movimento, abbiamo fatto un film molecolare, abbiamo capito com'è possibile che la visione umana sia così efficiente. Si pensa ad esempio all'uomo, ma anche a molti animali che nel buio della notte riescono a percepire anche la luce più flebile attorno a sé. Avete fatto una specie di rallentatore del fenomeno? Esatto, abbiamo rallentato qualcosa di analogo, il movimento di milioni di volte. E quindi abbiamo un film dove l'orologio viaggia lentissimo e si vede questo movimento rapidissimo in un tempo di qualche secondo, che è il tempo che l'uomo riesce a vedere. Bene, complimenti, e torneremo in una delle prossime puntate per spiegare meglio tutto il meccanismo. Complimenti ancora. Grazie, arrivederci. Voi adesso concentratevi mentalmente su come è fatta una lumaca con guscio, poiché non posso far vedere un'immagine, fatevela voi nella testa questa proiezione. Il guscio come è fatto? Ha una spirale, no? E quando si ha a che fare con le spirali sappiamo che esse ruotano in senso orario o in senso antiorario. Guardiamo un guscio quindi e vediamo se la spirale che lo caratterizza è oraria o antioraria. Poi, guardando sempre la vostra lumachina, dovreste ricordarvi che questo guscio non sta esattamente sopra il corpo, ma è abbastanza inclinato da una parte. Avete presente? Visto da dietro, insomma, il guscio da una parte tocca quasi terra e quindi copre il corpo della lumaca. Dall'altra è più alto. Bene. Adesso ascoltiamo Menno Schiltuizen, biologo evoluzionista olandese che da diversi anni lavora in Nuova Guinea. L'ho incontrato al convegno della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica che si è tenuto a Milano una ventina di giorni fa. Lui inizia subito a parlare di serpenti e lumache. Attenzione, io ho visto dei filmati che riguardano cosa sto per raccontarvi. Vi segnalo che i serpenti di cui si parla sono piccolini, sono una specie con una testa non più grande di un pollice di una nostra mano. Allora, ascoltiamo. In East Asia there are a few species of snake occurring which are specialized on eating snails. Lui dice che nell'Asia orientale troviamo alcune specie di serpenti che si cibano di lumache. In generale, il guscio delle lumache si sviluppa con una spirale che ruota in senso orario e quindi ecco che i serpenti hanno sviluppato, con un processo evolutivo, una bocca che è asimmetrica, cioè adattata a mangiare lumache con questa spirale oraria. Infatti, se vedete la bocca di questi serpenti, si vede che hanno molti più denti, ma veramente molto di più, sulla mandibola destra che sull'altra. Perché quando azzannano le lumache, chiamiamole così, orarie, che hanno il guscio che pende a sinistra, loro affondano più denti sulla destra, dove il guscio non protegge il corpo delle lumache. Sentiamo ancora Menno Schiltuizen. But when they meet or when they find a snail that is anti-clockwise, they're not very good at eating on it. Lui dice, quando i serpenti incontrano lumache antiorarie, si vede che fanno molta più fatica ad azzannarle e infatti è molto più facile che queste lumache scappino, si liberino dal morso. Questa situazione è interpretata da molti ricercatori come una buona motivazione per la presenza in queste regioni di una percentuale di lumache antiorarie più elevata che in altre aree, perché se la cavano meglio. Ovvero, ci dice Schiltuizen, se la spirale antioraria rende la vita difficile ai serpenti, è ovvio che le lumache che ce l'hanno sono favorite dal punto di vista evoluzionistico. In questa zona, attenzione, dove ci sono i serpenti che mangiano lumaconi, perché in generale le lumache orarie sono la maggioranza sul pianeta. Ora viene fuori un altro problema. questa volta solo per le lumache. Dunque, la maggioranza delle lumache abbiamo detto che ha il guscio orario. Questa disposizione simmetrica non è solo del guscio, un po' tutto il corpo ha una sua simmetria, anzi sarebbe meglio dire una asimmetria, perché sentiamo ancora il nostro biologo olandese. Well, chirality in sex is quite interesting because in some species it's very hard for an animal to mate with. Cosa dice il nostro ricercatore? Ve lo riassumo. Per alcune specie l'asimmetria è un bel problema. Anche fra gli umani ci sono persone che hanno una disposizione interna degli organi che è rovesciata, il cuore a destra, il fegato a sinistra, ma questo non comporta nessun particolare problema. Ma se, come nelle lumache, l'asimmetria riguarda anche gli organi genitali, ecco che se delle orarie sono in maggioranza, le antiorarie rischiano sempre di scomparire. Perché non c'è modo di trovare una posizione nella quale potersi accoppiare con delle orarie. Lo so cosa stanno pensando alcuni di voi, con spiccata mentalità imprenditoriale, un bel manualetto Kama Sutra da vendere alle lumache anti-orarie. Ma queste hanno soldi? Io questo non lo so, ragazzi. Lui ha detto che adesso sentiamo le notizie sul traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come ogni settimana, eccoci arrivati al nostro gioco, il quiz. Avete presente Don Pizzarro, il teologo un po' matto interpretato da Corrado Guzzanti quando viene intervistato da Serena Dandini? Sentiamolo. Acere, ma te l'universo vero, lo sai qual è? L'universo. La teoria vera dell'universo. No, il paradiso. Ma lascia perdere, no, la teoria vera dell'universo, lo sai qual è? Quello del Big Bang, quello che però non si... No, la teoria attuale dell'universo, quella vera, ci stanno le equazioni, devo andare a vedere, no, è fantasia, metafisico, la teoria dell'universo si chiama M-Theory. Praticamente dice che ci stanno 11 dimensioni e infiniti universi paralleli. Matteo, lo sai che se ti metti in orbita in un certo modo rispetto all'orizzonte degli eventi di un buco nero supermassivo a rotazione puoi viaggiare avanti e indietro nel tempo? No. Ma di che stai a parlare ancora tu, Spirito Santo? E infatti il black hole, il buco nero, è al centro della domanda che oggi Mebius vi propone. È questa: se pensiamo di avvicinarci a un buco nero con il nostro corpo svolazzando per l'universo, che cosa ci accadrebbe? Primo, non riusciremo a parlare perché il buco nero risucchia tutta l'aria e il suono ne ha bisogno perché è su di essa che viaggia, ci scriverete aria. Secondo, se scendessimo in verticale con i piedi verso il buco nero, questi sarebbero attirati, i piedi verso il buco nero, molto di più che la testa, ci scriverete verticale. Terza e ultima possibilità, l'unico modo per evitare di finire fagocitati dal vortice sarebbe quello, è stato calcolato, di aprire un paracadute grande quanto la mezza sfera del nostro pianeta. Ci scriverete sfera. Dove? Al 349-238-6666, questo è l'indirizzo di SMS. Il libro che si vince questa settimana è Sotto falso nome, Scienziati italiani ebrei 1938-1945 di Raffaella Simini, edito da Pendra. E di questo libro parleremo fra poco qui a Mebius. In collaborazione con IBS.it. Ho già in linea qua Barbara Gallavotti. Ciao Barbara. Ciao Federico. E anche Sergio Bertolucci dalla Russia, se non sbaglio. Bertolucci, buonasera. Buonasera da Dubna. Sergio Bertolucci, direttore di ricerca al CERN di Ginevra. Il tema, Barbara, per cui abbiamo convocato nei nostri studi Bertolucci è la gestione delle risorse umane al CERN di Ginevra come esempio particolarmente efficiente, però insomma certo, di una buona gestione delle risorse umane Bertolucci fa anche parte scoprire il plasma nelle prime frazioni di secondo della nascita dell'universo, è la notizia di questa settimana. Beh, direi che è una notizia un pochino gonfiata, nel senso che è stata osservata per la prima volta una certa distribuzione di particelle negli ulti protone e protone, ma da qui a inferire che si tratta di quark-gluon plasma nelle collisioni protone-protone c'è una lunga strada da fare. E non sarebbe, secondo me, ora giustificato scientificamente farlo. Sì, sottolineiamo, no, Barbara, che si tratterebbe di quel plasma che si sarebbe manifestato nei primi istanti di vita dell'universo, no? Secondo alcune teorie si sarebbe creata subito dopo il Big Bang uno stato molto particolare in cui i quark, anziché essere legati fra di loro, come sono sempre per esempio nei nuclei degli atomi, sarebbero stati liberi in una sorta di brodo primordiale. Va bene, allora torniamo invece al nostro tema. Barbara, introduci tu il tema allora. Beh, il tema è qualcosa che potrebbe, penso, far sognare qualsiasi imprenditore. Guardate, immaginate di gestire un'azienda che ha diverse migliaia di dipendenti, quindi non pochi, e per giunta questi dipendenti provengono da tutto il mondo, qualcuno proviene da paesi che sono sicuramente non in buoni rapporti fra loro, come per esempio Iran e Israele. Poi immaginate di non avere o di non prevedere strumenti come i premi di produzione, però di ottenere lo stesso una dedizione totale quasi 24 ore su 24, nessun problema per i turni di notte, nessun problema per i turni a fine settimana. Immaginate che le decisioni siano prese in modo tale che tutti hanno la voce in capitolo, ma alla fine a decidere sono solo pochissimi. Ecco, è impossibile una cosa del genere. In realtà è quello che si verifica nelle grandi collaborazioni scientifiche. Il CERN in questo momento rappresenta la più grande collaborazione scientifica del mondo, è il posto dove c'è in azione l'acceleratore dell'HCino, l'abbiamo ricordato prima perché l'abbiamo detto tante volte. Sergio Bertolucci, che è direttore di ricerca del CERN, ha recentemente raccontato a una riunione internazionale di gestione strategica, che si chiamava Strategic Management 2010, come fanno. Beh, il CERN è effettivamente un posto piuttosto interessante da questo punto di vista. Immaginatevi una struttura che ha circa 2.300 dipendenti, 700 borsisti, ma che serve una comunità mondiale di più di 10.000 utenti registrati, cioè di persone che vengono a fare esperimenti al CERN. Come diceva prima Barbara, secondo me è un po' come gestire un grandissimo branco di gatti. Com'è possibile che questo succeda? Succede per una serie di motivi che sono facili anche da spiegare. Innanzitutto noi come comunità siamo una comunità semplice, perché siamo basati su una serie di regole che sono condivise e che sono state elaborate nel corso dei secoli, sono del metodo scientifico. Sappiamo cosa vuol dire fare ricerca, cosa vuol dire fare ricerca fondamentale. Questo ci permette di condividere una serie di valori, che sono di nuovo pochi, ad esempio il fatto che siccome la scienza è intrinsecamente non democratica, nel senso che non si può decidere chi ha ragione votando, deve essere fatta con sistemi estremamente democratici, perché tutti devono essere in grado di sostenere le proprie idee, tutti devono avere il vaglio di una revisione di loro pari che controllano le loro idee, le confutano o le accolgono se sono valide. In più, ognuno di noi si è reso conto che in questo mestiere si può lavorare soltanto se ci sono due elementi contemporaneamente, se c'è la collaborazione e se c'è la competizione. Per cui noi siamo una società basata, una società collaborativa e competitiva nello stesso momento. Siamo competitivi tra laboratori, siamo competitivi tra esperimenti, siamo competitivi all'interno di un esperimento, e questo secondo me sono i tratti fondamentali. In più c'è quello che io chiamo l'aspetto un pochino particolare di questo mestiere. In ognuno di noi, c'è la maggior parte di noi, la stragrande maggioranza di noi, sa da subito che non è un genio. Malgrado questo, ognuno di noi mantiene un 5% di sogno, quello che io chiamo un 5% di sogno, di portare un contributo originale, piccolo ma originale, al progresso della scienza. E questo ci permette di lavorare per il resto del 95% a fare i portatori d'acqua al grande edificio della scienza. Ecco, ma Bertolucci, in questa gestione che le ha descritto molto bene, non c'è anche un elemento molto particolare rispetto ad altre grandi comunità lavorative, cioè una tremenda passione? Sì, noi sappiamo, tutti, siamo tutti convinti che stiamo facendo un mestiere che è fondamentale, che è fondamentale per il futuro nostro, dei nostri figli e dell'umanità in generale, senza adesso essere troppo magniloquenti, però non abbiamo mai l'idea che stiamo facendo qualcosa di socialmente. E poi c'è l'aspetto della curiosità, curiosità e della passione che è fondamentale. Sì, questo sicuramente è un aspetto fondamentale della scienza, però il CERN è un posto davvero particolare anche da un altro punto di vista, perché il direttore generale del CERN non è solo il capo di una struttura, ma è quasi il governatore, perché Bertolucci ce lo confermerà, ad esempio la polizia può entrare all'interno del CERN, che è sostanzialmente extraterritoriale, solo se chiamata dal direttore di ricerca, giusto? Sì, questo è giusto. Noi siamo un'organizzazione internazionale che gode di un'extraterritorialità, per cui effettivamente la polizia svizzera o francese ci deve chiedere il permesso per entrare al CERN. Questo non è che ci rende un porto franco, ma rende il CERN per tutte le persone che ci vengono dentro casa loro. Si spoglia di una nazionalità precisa e tutti venendo al CERN vengono a casa loro. Ecco, ma avrete comunque dei momenti di crisi, come li gestite quando proprio non riuscite a trovare un accordo al vostro interno? Beh, i momenti di crisi si gestiscono in maniera diversa a secondo a cosa sono applicati. Ad esempio, la crisi all'interno di un esperimento, quando c'è una crisi rispetto o a un problema di tipo scientifico, ad esempio ci sono idee diverse sui risultati di un'analisi, vengono essenzialmente gestite con una serie consecutiva di giudizio tra pari, sia all'interno dell'esperimento e, quando non basta, ricorrendo anche alla comunità internazionale, prima al direttore di ricerca e poi dopo man mano agli altri. E nel caso dell'infrastruttura, se c'è ad esempio una crisi nel finanziamento del CERN, il direttorato si fa carico di fare delle proposte che vengono poi discusse dai rappresentanti degli stati membri e che vengono pian piano raffinate. Per cui esistono vari sistemi, ma tutti sono basati su due principi: su un principio di trasparenza, su un principio di informazione e alla fine nel cercare a tutti i costi di raggiungere un consenso. È molto difficile al CERN che, ad esempio, anche nel caso del Council si arrivi a delle votazioni. Bene, grazie Sergio Bertolucci, buon lavoro a Dubna e a presto. A presto Bertolucci. Grazie, buon lavoro anche a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Raffaella Simini insegna storia della scienza all'Università di Bologna. Come vi ho accennato poco fa, ha scritto sotto falso nome Scienziate italiane ebree 1938-1945, edito dalle edizioni Pendragon. Chiara Albicocco vi accompagna in questo racconto, alla cui realizzazione ha partecipato anche Sara Occhipinti. Problema di scottante attualità è quello razziale. La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. La violenta campagna antisemita, scoppiata in seguito alla pubblicazione sul Giornale d'Italia del Manifesto della Razza, il 14 luglio 1938, travolse come un uragano le scienziate e gli accademici ebrei di tutta Europa. E successivamente alla diffusione dei provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, uomini e donne di scienza ebrei furono radiati dalle università, dalle accademie e da tutti gli istituti culturali. In molti casi furono costretti alla fuga per evitare la deportazione e spesso la morte. Eugenia Sacerdote Montalcini, cugina di Rita Levi Montalcini, anche lei scienziata, racconta di quando fu obbligata a emigrare all'estero. Prima non c'era mai stata una discriminazione contro gli ebrei. Quindi ci siamo trovati di colpo che tutti abbiamo perso il lavoro. Era molto difficile andare in Nord America. Allora abbiamo pensato al Sud America, e fino a quando, per fortuna, i fratelli Pirelli, che sono stati molto gentili con mio marito, che lavorava già alla Pirelli da circa 10 anni, ti hanno detto: noi stiamo per mettere una fabbrica di cavi elettrici in Sud America, in Argentina, con difficoltà per avere il visto, perché in quel periodo era pieno di gente che cercava di scappare dall'Europa, e quindi i visti li davano un po' col contagocce, facendosi pagare. Non era facile, e finalmente fine giugno del 39 siamo partiti. Quando ho passato l'equatore, io ricordo di essere stata sulla nave tutta la notte per salutare la stella polare, l'ossa maggiore e l'ossa minore, perché mi sono trovata di colpo che scomparivano queste stelle e che mi trovavo con un cielo stellatissimo, con tante tante stelle, ma tutte sconosciute. La stessa Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986, visse quegli anni in clandestinità sotto il falso nome di Rita Lupani. La mia famiglia aveva deciso no la migrazione, come tanti hanno fatto negli Stati Uniti. Rimaniamo qui, le cose cambieranno. Io ero convinta che non sarebbero cambiate, ma non mi sarei mai separata da quello che era la mia famiglia. Quindi ho messo un piccolo laboratorio, piccolissimo, in camera da letto, 2x3. Ho fatto le ricerche che poi mi hanno portato a Stoccolma, 1986. Proprio le donne scienziate furono, se possibile, ancor più colpite dalle leggi razziali, perché vennero addirittura cancellate dagli elenchi ufficiali dei radiati. Questa memoria perduta le ha rese per lungo tempo doppiamente invisibili, come donne di scienza e come ebree. Raffaella Simili le fa rivivere nel suo libro, sotto falso nome, Scienziate italiane ebree 1938-1945. E in questo libro sono raccolte le testimonianze di queste donne, straordinarie, e delle persone con cui hanno vissuto. Sentiamo ora dalla voce della scrittrice una di queste storie. Un'altra figura estremamente interessante delle scienziate italiane ebree è la professoressa di fisica Nella Mortara, che faceva parte del gruppo fisico romano, quello protetto da Orso Mario Corbine, di cui era leader Enrico Fermi. Nella, che era libera docente nel 1934, subì le leggi razziali e in un primo momento fuggì col fratello e le sorelle in Brasile. Successivamente nel 1941 rientrò preoccupata della sorte dei genitori e visse in clandestinità nel periodo più duro, dal 1941 al 1943, nascosta in un convento, come spesso accadeva. Si occupò soprattutto di radioattività e per questo collaborava col gruppo Fermi, e ebbe un ruolo importante presso i suoi docenti, tant'è che ancora oggi il ricordo di zia Nella, che così viene chiamata anche da Carlo Bernardini, è rimasto negli studenti proprio perché era una donna estremamente generosa, oltre che a essere una brava docente e ricercatrice. Lei è stata fortunata perché, per fortuna, è stata reintegrata dopo la guerra e le hanno riconosciuto quella libera docenza che le avevano dato fin dal 1934. Il destino di altre scienziate fu decisamente meno fortunato. Luciana Nissim Momigliano, medico, fu deportata ad Auschwitz appena laureata e grazie alla sua professione riuscì a sopravvivere al campo di concentramento e a tornare a casa per diventare un'autorevole psicanalista, riconosciuta a livello internazionale. Partimmo da Fossoli di Carpi, vicino a Modena, la mattina del 22 febbraio 1944, con alcuni tra i miei più cari amici, Wanda Maestro, Primo Levi e Franco Sacerdoti. Eravamo 50-60 persone in ogni carro bestiame e il numero totale dei deportati si aggirava sui 550-600. Eravamo scortati unicamente da soldati tedeschi. Furono catturati sulle montagne, dove si erano riuniti insieme ad altri per dare vita alla resistenza contro i tedeschi. La loro lotta fu breve. Qualcuno tradì e vennero incarcerati ad Aosta. E dopo un breve periodo di reclusione a Fostoli, i quattro amici furono deportati ad Auschwitz. Il treno arrivò a destinazione alle 22:30 del 26 febbraio. Era un sabato. Entriamo in un portone. Sul frontone c'è scritto Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Un SS si avvicina a noi, ci guarda bene, per fare una scelta tra noi donne. Una la manda a destra, una a sinistra. Mette anche Wanda e me nel gruppo di sinistra. Ci dicono di metterci in fila e cominciano con la prima di noi il sinistro rituale dell'iniziazione al campo. Le tatuano sull'avambraccio sinistro con uno stiletto intriso nell'inchiostro un numero d'ordine e sotto un triangolino. Il triangolino significa che si tratta di un'ebrea e serve a distinguerci dai molti non ebrei presenti nel campo. Ora è il mio turno. Il tatuaggio è leggermente doloroso. Mentre ricevo il mio numero 75689, dico la prima frase tedesca che ho imparato. Ich bin Arzin. Io sono una dottoressa. Pensando che questo può forse essere interessante, ma senza molta fiducia. Invece ben presto vedrò quale importanza riveste il fatto che io sia un medico. Grazie alla sua professione, Luciana venne mandata in infermeria e conservò maggior libertà rispetto alle altre deportate. Spesso riusciva a passare anche al Lager B per far visita alla sua cara amica Wanda. Wanda diveniva ogni giorno più debole. Il suo visino era ogni giorno più piccolo, sciupato. Gli occhi meno brillanti, il suo spirito meno vivace. Le sue gambe erano gonfie, i piedi piegati, pesanti. Camminava con fatica, trascinando a stento gli enormi zoccoli che le scappavano. Una parola dura la faceva subito piangere. Wanda, dal viso minuto e gentile, appena laureata in chimica, femminista e che poco prima dell'arresto aveva iniziato la sua militanza partigiana, fu uccisa ad Auschwitz il 30 ottobre del 44 in una camera gas. Luciana invece resistette all'orrore e tornò a casa il 20 luglio del 1945. Ero uscita viva dallo sterminio, anche grazie al fatto che ero laureata in medicina, ma il mio tirocinio di giovane medico si era svolto nell'orrore e nella disperazione assoluta di Birkenau. Ora però la guerra crudele era finita e come tutti, almeno in quei primi mesi di pace, ero piena di slanci, di speranza e di voglia di ricostruire. Due mesi dopo il suo rientro in Italia cominciò a lavorare nella clinica pediatrica di Torino, ritrovò gli amici di un tempo e si sposò con Franco Momigliano, reduce anch'esso dalla guerra partigiana. Trasferitasi a Milano si avvicinò alla psicanalisi ed ebbe il suo unico figlio. Negli anni successivi si affermò in questo campo e introdusse tecniche inedite nei percorsi di psicanalisi. Luciana Nissi Momigliano morì a Milano il 1 dicembre del 1998 e dal lontano 47 si era rifiutata di parlare ancora del Lager. D'altronde usava dire: Primo Levi parlava per tutti noi. 50 anni prima aveva concluso i suoi ricordi con questa frase. Del nostro trasporto sono tornate 12 o 13 persone, gli altri sono rimasti laggiù. Anche Primo Levi è tornato, ma di Wanda e Franco abbiamo solo due fotografie. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare. E il vento si poserà, e il vento si poserà. Lasciamo un passato certamente molto difficile e saltiamo il presente che non è facilissimo, ma certo niente può essere confrontato con quegli anni di cui abbiamo appena sentito i racconti. Andiamo invece verso quello che potrebbe essere un futuro, speriamo, decisamente migliore. L'area Science Park di Trieste organizza anche quest'anno, il 29 ottobre, il suo Business Day. Che cos'è questo Business Day? È un momento di incontro fra le aziende che ci sono negli incubatori dell'area Science Park, quindi sono tutte nuove aziende che nascono con una radice abbastanza forte nella ricerca scientifica, sono tutte giovani realtà. Quest'anno saranno 40 aziende che nel Business Day incontrano imprenditori, manager, ma anche operatori, insomma in genere dell'ecosistema dell'innovazione italiano, li incontrano per vedere, insomma, se possono nascere nuove produzioni, nuove attività industriali. Il 29 ottobre, appunto, prossimo, noi di questo Business Day vi racconteremo poi in trasmissione. Per informazioni andate su internet e trovate tutto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La soluzione del nostro quiz, eccola qua. Vi ricordate che cosa succederebbe al nostro corpo se ci avvicinassimo verso un buco nero? Non riusciremo a parlare perché l'aria mancherebbe? Beh, nello spazio interstellare l'aria non c'è da nessuna parte e quindi perché dovremmo trovarla lì? Nel vuoto non si può mai parlare. Oppure un paracadute grande come mezzo emisfero terrestre per rallentare la nostra corsa? Ma perché un paracadute abbia effetto ci vuole dell'aria, e poi altro che mezza Terra, un buco nero si mangia un'intera stella e il nostro pianeta è molto meno di una briciola di questo pasto. Invece è vero che l'attrazione gravitazionale del buco nero è talmente forte da avere valori diversi su una distanza anche molto breve. Ciò avviene pure qui sulla Terra. Se stiamo in piedi in un prato, i piedi appunto sono più vicini alla massa della Terra, solo che l'attrazione gravitazionale che esercita il nostro pianeta è semplicemente ridicola rispetto a quella di un black hole. Se fossimo alti 30 km sulla Terra, beh, forse qualcosa di significativo avverrebbe. Invece, cadendo con i piedi verso un buco nero, ad un certo punto ci si può trovare con una differenza, attenzione, di attrazione gravitazionale fra la testa e i piedi di circa 15 volte. Cosa vuol dire? Vuol dire che i piedi sono tirati giù con una forza superiore di 15 volte a quella che tira giù la testa, il che significa, non è un paradosso, che la testa svolge un effetto freno perché è attirata meno. Risultato? Spiacevole direi. Si finisce stirati con una striscia di gomma. Arriva anche quest'anno il Festival della Scienza di Genova, quello che ormai è diventato il più ampio come eventi organizzati, come pubblico festival scientifico europeo. Nelle prossime settimane vi parleremo del suo programma. Questa sera invece ci chiediamo cosa significa organizzare un appuntamento di questa natura, cosa costa, c'è il desiderio negli organizzatori di qualcosa che si potrebbe fare ma che non lo si riesce a fare. Non resta che trovare risposte con Vittorio Bo, che il festival lo dirige. Buonasera Bo. Buonasera. Adesso vorremmo discutere con lei di un argomento che però è decisamente fondamentale e credo anche piuttosto interessante per parlare di un appuntamento come questo di Genova, cioè che cosa significa organizzarlo, che difficoltà in generale si incontrano nell'organizzazione di un evento culturale così grosso e soprattutto di questi tempi, insomma, che sono molto difficili dal punto di vista economico. Ma dunque, una caratteristica dei festival è quella della loro, del loro essere un po' corsari, nel senso che ogni anno deve cambiare completamente o quasi il programma. Quello che non cambia invece è la parte organizzativa, la costruzione dei rapporti con le istituzioni, con tutti i soggetti che sono interessati a promuoverlo, che lo finanziano, anzi questo deve essere un rapporto che continua nel tempo, che fa crescere tutto quello che poi è un risultato che si concentra in 11 giorni con tantissimi eventi, più di 350. E quindi in questo periodo soprattutto la difficoltà è quella primariamente economica, ma anche quella di riuscire a selezionare in un modo che siano considerati veramente essenziali gli elementi di attrattività, di interesse di un festival, no? Anche se il Festival di Genova ha una caratteristica fortissima, cioè riesce a mettere insieme eventi ai quali possono partecipare divertendosi la nonna con i nipotini e poi altri dove invece si va a sentire il top, la frontiera della ricerca. Sì. Ma diciamo che quello era uno degli elementi su cui ci siamo concentrati al massimo dalla prima edizione, cioè quali pubblici con quali linguaggi. Quindi non abbiamo fatto una selezione, un taglio, no? Abbiamo detto però se vogliamo rivolgerci ai bambini dobbiamo trattare questi argomenti con questi determinati mezzi e linguaggi, e così con la scuola, così come il pubblico, come si dice, generico, ma anche gli specialisti stessi, perché come giustamente lei ha rilevato al Festival della Scienza ci sono anche delle sezioni dedicate proprio alla comunità scientifica, e quindi in questo senso la sfida che noi avevamo di fronte dall'inizio era proprio quella di riuscire a mettere insieme diverse modalità che raccogliessero però degli interessi che sono abbastanza comuni, perché uno degli intenti sin dall'inizio è stato quello: creiamo attenzione, attrattività, divertimento, interesse sulla scienza in modo tale che cresca la passione scientifica. Ecco Bo, però come riuscite a far tornare i conti? Io so che è un'avventura non facile, insomma. Ce la fate, ce l'avete fatta? Sì, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, ce la stiamo facendo con più difficoltà oggi. Ovviamente. Degli anni passati, ma però devo dire anche con le stesse se non maggiori soddisfazioni, nel senso che quest'anno noi siamo riusciti a conquistare la causa, a convincere anche nuovi sponsor, che di questi tempi è particolarmente significativo. Sì. Sono più di 10. I nuovi? Di nuovi, sì. Però la sostenibilità economica è assolutamente primaria. E noi siamo a più del 50% di provenienza dei nostri fondi, escludendo la bigliettazione che conta circa il 12-14% a seconda degli anni, ma nella parte finanziaria noi abbiamo più del 55% che proviene da fondi privati, da partecipazione. Ma lei può dire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici qual è l'ordine di grandezza? Quanto costa una vicenda come il Festival di Genova? Costa 3 milioni di euro, tutto compreso, nel senso che ci sono dentro ovviamente i costi di struttura, di gestione. Il festival poi vale di più, cioè vale di più in due sensi. Il primo è quello in sé, nel senso che noi ospitiamo tanti eventi perché il festival è anche un momento di comunicazione per molti soggetti che singolarmente magari non vedrebbero un luogo o una modalità di incontro con la scuola, ma non solo la scuola, e quindi noi li ospitiamo, ma vengono pagati o sono prepagati da strutture che vengono da tutta Italia, non solo da tutta Italia, quindi noi diamo ospitalità, paghiamo i servizi, ovviamente stanno dentro la comunicazione, quindi il festival rispetto a quei 3 milioni vale almeno 1,5 milioni, 2 milioni di più. Sì. E poi sicuramente c'è il fatto che Genova gode di una straordinaria visibilità e anche attrattività turistico-culturale, per cui Genova in quei giorni è davvero piena di gente, le stanze degli alberghi sono piene, i ristoranti sono pieni, quindi è il cosiddetto impatto economico dei festival. Qui ricordiamo che è dal 29 al 7 novembre, da 29 ottobre al 7 novembre. Immagino che lei abbia un'idea e un'esperienza magari anche diretta di che cos'è organizzare grandi eventi in altri paesi europei. Le sembra che ci sia qualche problema tipicamente italiano che le piacerebbe non avere dovendo organizzare un festival? C'è qualcosa sulla quale siamo ancora un po' indietro e rigidi? Ma dunque, intanto c'è da registrare un elemento molto positivo, che da noi i festival sono cresciuti tanto, ma che funzionano molto bene. Sì, è vero. In campi anche diversi e assolutamente inaspettati per le cosiddette comunità di riferimento, cioè di patente tematica. Per esempio, mi ricordo il primo anno, gli economisti stranieri, quando sono venuti a Trento, io andai a Trento, erano sorpresi di un fenomeno così, la scienza triste che diventa improvvisamente un elemento di attrattività. Ma la stessa cosa posso dire a Genova qualche anno prima, quando ci inventammo con Manuela Rata il Festival della Scienza, non era così scontato che prima di tutto la città, poi la comunità scientifica, poi le scuole. E che cosa c'è che non va o che comunque potrebbe andare meglio? Diciamo, da una parte una programmazione, una maggiore programmazione e garanzia, ovviamente controllata sia a livello qualitativo che anche di gestione della componente finanziaria. Noi purtroppo viviamo molto non a singhiozzo, ma sì, c'è una sofferenza, no? Dei flussi. E in questo, un po' un vizio italiano, noi dovremmo riuscire a programmare anche al di là dell'esercizio, cioè di anno in anno, per fare grandi, cioè dei progetti che siano più lunga scadenza che non solo l'edizione successiva a quella a cui si guarda con ansia, con tutto il... Guardare più lontano, lei dice, certo. Ci sono alcuni esempi, non tanti, ma per esempio c'è un esempio che a me ha colpito molto a Linz in Austria. C'è un festival che si chiama Ars Electronica, che è stato fondato nel 79, quindi 31 anni fa, che è diventato un festival veramente internazionale, molto alto di livello, si è poi allargato alle arti performative, eccetera. Dopo 10 anni loro hanno deciso di creare un Ars Electronica Center ed è diventata davvero un blockbuster della città. Cioè loro dicono, per noi l'Ars Electronica è come il Guggenheim a Bilbao. Ecco, non necessariamente una struttura permanente, ma perché no? Visto che in Italia purtroppo di Science Center ne abbiamo pochi. Cioè lei dice avere un momento centrale nell'anno, ma una continuità, ma, per esempio, in altri momenti. Facciamo già un primo passo. Noi faremo all'interno del sistema editoriale, del web, del nostro sito, creiamo dei videoblog che saranno più di 20, dove trasmetteremo dirette del festival, di eventi particolarmente importanti, e li manterremo grazie all'apporto fondamentale di Telecom, perché ci dà la banda, ci aiuta a creare questo iniziale sistema editoriale. Ma l'aspirazione nostra vorrebbe essere quella di creare ulteriori contenuti da sfruttare, da utilizzare a diverso livello, nel senso che potrebbero diventare dei veri e propri sistemi editoriali dai quali, diciamo, prendere dei contenuti per lezioni piuttosto che per linee di indirizzo, non lo so, per esempio in talks aziendali, fare un Why che scienza, per esempio. Certamente i festival hanno bisogno di evolvere, non solo perché di anno in anno, come dicevo prima, hanno la necessità fondamentale di creare contenuti diversi, anche con una forte turnazione. Per esempio noi non abbiamo quasi mai il ritorno di conferenzieri, piuttosto proponenti sì, ma nel senso che appunto poi magari ci portano degli altri contenuti. Questo secondo me deve essere una caratteristica fondamentale del festival, cioè quello di sorprendere sempre un po', di avere qualche, pur mantenendo un carattere di fidelizzazione, anzi alimentandolo, cercando proprio di seminare e coltivare tutta una serie di valorizzare, certo. Esattamente. Grazie, ci vediamo presto lì vicino al porto. Va bene, grazie infinite. Ma c'è anche un cugino minore, più giovane, del Festival della Scienza di Genova, anche un po' più piccolo, dall'1 al 17 ottobre a Bergamo, c'è anche quest'anno e quindi è iniziato venerdì scorso. Lo seguiremo. Qui voglio segnalarvi alcuni appuntamenti della settimana entrante. Lunedì alle 21, Ex Systems, film di David Cronenberg, vicenda di una creatrice di giochi di realtà virtuale che sono connessi direttamente al corpo umano. Martedì, sempre alle 21, La resistenza fisica e psicologica nella maratona e nell'ultramaratona, è una conferenza che si tiene alle ore 21, e mercoledì alle ore 21, anche in questo caso, neurologia e montagna. Sono due appuntamenti quindi dedicati alla fisiologia e alla psicologia nelle attività sportive. Giovedì, raggi cosmici di altissima energia e messaggeri dell'universo. E poi, sempre credo giovedì, Lorenzo Lotto, Invisibile, la ricerca scientifica oltre il restauro. E dove sono però tutti questi appuntamenti? È meglio che andiate a vedere il sito internet, che trovate digitando Festival della Scienza di Bergamo in un qualsiasi motore di ricerca. Lui sta dicendo che se qualche organizzatore di festival ha bisogno, sì, di un piccolo robot da far vedere, da far vedere al pubblico in uno stand, sì, lui è disponibile. Va bene. Di buonasera a tutti e a tutte. Bravo, bravo. Alla prossima settimana, allora, dalla redazione di Möbius.